minuty po trzeciej. Dziś w wielkim pięknie, także od czasu do czasu uniwersalne słowa papieża Franciszka do zastosowania w praktyce. Trzy słowa, które mogą pomóc przetrwać trudne chwile. Trzy słowa, jak mawiał, trzy słowa klucze, które też postaramy się udźwiękowić w audycji Trójka pod Księżycem w najbliższy piątek, tuż po północy. Na audycję zapraszam w imieniu Baszki Marcinik. A te słowa to proszę, dziękuję i przepraszam. 11 minut po trzeciej. Era i kolejna adaptacja średniowiecznych pieśni Katarów. Kim byli Katarzy i w co wierzyli? Między innymi w to, że świat materialny jest zły. Co jeszcze? To proszę Państwa już we własnym zakresie. Teraz Włochy, Rzym. Tutaj się urodził artysta, który w przyszłym roku zaprezentuje się w Polsce na żywo. 8 kwietnia 2026 w Tauron Arena Kraków. Eros Ramazzotti. Tra te, dove la trovo io, un'altra che sorprenda me, un'altra te, un guaio simile, un guaio. Chissà se c'è un'altra te, con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un altro viso cogliere non so, quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Capacità di tenere i ritmi diavolati degli umori miei, mio cuore. Un'altra come te, ma nemmeno se la invento c'è. Mi sembra chiaro che sono ogni sera la tua gelosia, anche se poi era forse più la mia, e mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì dove io li avevo appoggiati, oh, quindi su di te. Preoccupante, ma un'altra te non credo. Oh, oh.

gioia plena. Także z Brianem Adamsem, 26 minut po trzeciej, o Sole Mio przed momentem, to teraz ponownie na ścieżce dźwiękowej trójki Ennio Morricone, reżyseria Giuseppe Tornatore, w rolach głównych Gérard Depardieu i Roman Polański, premiera filmu w 1994 roku. Ennio Morricone z filmu Czysta formalność. Thank you.

ovunque tu sarai, mai sola mai. Sai che cosa c'è dopo per noi? Forse un Dio dallo sguardo ribelle che non si pente mai. Forse un Dio che bestemmia ogni tanto e alza la radio proprio come noi, come noi. Sai che cosa c'è dopo per noi? Un treno verso il centro dell'inferno, un volo per le Hawaii, o solo un Harley Davidson rosso con la coda di fuoco per continuare il gioco, per correre anche dopo. Io non voglio stare con chi ha umiliato la mia generazione, con quelli belli e troppo per bene e a cui non so che dire, con chi è drogato di denaro, con chi ti guarda dalla testa in giù. No, io non voglio stare, no, non voglio starci più. Io voglio stare con chi ha l'anima mia, con chi ha inventato una moto e da sempre via, con chi si guarda allo specchio e dice un'altra bugia e dice domani, domani cambiamo ma oggi no. Chissà che cosa c'è dopo per noi che non abbiamo esempi e certo non lo saremo noi. Per noi che dopo pianto ci scappa sempre da ridere, qualche volta no, no, qualche volta no. Io non voglio stare con chi ha già fatto il giudizio universale, ma sa benissimo però da quale parte stare, con chi ti giura che è per sempre e poi ti giri e non lo vedi più. No, io non voglio stare, no, non voglio starci più. Io voglio stare con chi ha l'anima mia, con chi ha inventato una moto e da sempre fugge via, con chi teneva qualcuno che se n'è andato via e dice domani, domani cambiamo ma oggi no. No, non è tardi. No, non è tardi mai. Voglio stare con chi ha l'anima mia, con chi ha inventato una moto e da sempre fugge via.

ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio. Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione tutto questo, farò prigione la mia vita se sei la sposa per un altro. Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui, che muoio per te, muoio per te. E solo come mai, così solo come oramai, con tutti i miei domini, cosa sono qui? Sono niente così, non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore. Passo da Gerusalemme, che è solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho il cuore perso in un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te, che se hai le chiavi e distruggi quel che ho, ogni prigione è povere, ne dici più non ho. I regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. The same way as my mom.